dolce, ho paura di amarti. Mi sogno già tuo uomo, ma non so cosa fare. Vestita col manto azzurro di rosa, non vivrai mai di pianto, dolce mia sposa. Piccola e dolce, ho bisogno del tuo amore. Ho scucito le mie tasche, dove al buio era la mia coscienza, per vederti qui con me, ridere di noi. Ma non so cosa mi chiedo, cosa mai tu vuoi. Piccola e dolce, cancello del mio prato, il tempo che ci ha unito spezzerà il nostro fiato, ma non potrà distruggere dentro i ricordi, immagini e discorsi, i nostri sguardi. Piccola e dolce, no, non piangere di noi, vedrai che il nostro amore si incontrerà di nuovo in un parco di delizie con erba argentata, rubini per la strada e diamanti per rugiada. Piccola e dolce, il tempo è con noi. Piccola e dolce, spero tu mi capirai. Potranno distruggerci, rubarci i gioielli, bruciare i nostri sogni, bruciare i nostri anelli. La luna splenderà con nuovi raggi anche di giorno, il vento soffierà e non ci sarà mai più ritorno. La luna splenderà con nuovi raggi anche di giorno, il vento soffierà e non ci sarà mai più ritorno. L'aurora seguirà a notti d'amore incandescenti e noi ci ameremo come due vecchi amanti. La luna splenderà con nuovi raggi anche di giorno, il vento soffierà e non ci sarà mai più ritorno. L'aurora seguirà a notti d'amore incandescenti e noi ci ameremo come due vecchi amanti.